Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. È dura alzarsi quando fuori è ancora buio, prepararsi e uscire con questo freddo. Avete tutta la mia solidarietà, ma andiamo. Io intanto vi accompagno con un po' di musica che comunque aiuta a prendere il ritmo. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Bene, dopo la musica provo anche con la ricerca. Numerosi studi hanno misurato gli effetti del freddo sulla nostra salute. Allora prendiamo coraggio e buttiamoci fuori. Sembra che camminare al freddo aiuti. Ce lo facciamo raccontare dalla professoressa Daniela Lucini, che è direttore della scuola di specializzazione in medicina dello sport e di esercizio fisico all'Università Statale di Milano, che è già in linea con noi. Buongiorno, professoressa. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti. Bentornata. Grazie. Allora, vinciamo la resistenza, perché in questi giorni il letto alle braccia, noi sì, ci rintaneremo volentieri, ma professoressa, c'è la ricerca che ci dà speranza e conforto. Sembra che camminare al freddo ci faccia bene, quindi cappello, sciarpa, cappotto, andiamo. È fuori. Sicuramente la prima cosa da dire è che camminare fa bene. Ci sono magari persone che quando il clima è più mite fanno delle belle camminate e non appena arriva il freddo non faccio più niente perché fuori non mi piace. Allora ricordiamoci innanzitutto che il non fare questo tipo di camminata, soprattutto se eravamo abituati a farla, ci porta a dei grossi problemi. Freddo, perché abbiamo paura che camminare al freddo ci faccia prendere freddo e ci faccia ammalare. Allora, innanzitutto bisogna essere certi di star bene, quindi se ho già l'influenza, se ho già dei problemi, mi curo e dopo esco. Il freddo di per sé, poi sa, dipende anche da che freddo, insomma, se siamo in Danimarca è diverso che essere da noi, ma di per sé non è questo il vero problema, basta essere coperti in maniera adeguata. Poi magari correre richiede qualche attenzione di più, ma il semplice camminare invece è molto più tranquillo. Quindi la prima cosa è coprirsi bene, ma non troppo, non dobbiamo sudare in maniera esagerata. L'abbigliamento tecnico che c'è adesso ci aiuta sicuramente. Stiamo attenti alle scarpe, perché magari si scivola più facilmente quando c'è il freddo, che magari il freddo si accompagna un po' di pioggerellina del giorno prima o cose di questo tipo. Ma veniamo alle cose belle, perché anche quando siamo in inverno, anche se magari c'è buio, va bene camminare. Allora, ci fa bene perché? Perché sono gli effetti della camminata quelli che ci aiutano, l'abbiamo detto già tante volte. Riuscire a svolgere un'attività, un esercizio di intensità moderata, la camminata a passo veloce tutti i giorni, è veramente un toccasano per la nostra salute. Anche se fa freddo, dicevamo, io mi copro e cammino. Poi il corpo si scalda un pochettino da solo, quindi il freddo, certo, muovendosi, è il primo momento. Il freddo va. Ma ci sono delle ricerche che svelano dei vantaggi quasi inaspettati che noi facciamo un po' fatica a collegare alla camminata al freddo. Anzitutto incominciamo a tenere presente tutto quello che noi possiamo fare al freddo, che magari è il momento dell'inizio della giornata. Quindi io mi sveglio la mattina, esco, prima di andare a lavorare, a fare la mia giornata, mi metto a camminare. Quante cose può fare la mia mente in quel momento? Posso pensare, posso organizzare la mia giornata. Ci sono addirittura ricerche che fanno vedere che si riesce a fare esercizi di mindfulness mentre si sta camminando. Altre ancora che semplicemente ci dimostrano come si riesce proprio a riorganizzare meglio il nostro pensiero, a riorganizzare meglio la giornata che abbiamo davanti, come si riesce ad avere una maggiore memoria nel lungo termine. Ho letto uno studio che evidenzia che camminare anche al freddo aumenti la nostra memoria del 20%, quindi diventiamo anche più scattanti da questo punto di vista. Diciamo che il camminare di per sé, come tanti altri tipi di esercizi, l'esercizio fisico, ma il camminare soprattutto, perché è anche la cosa più facile per tutti, ha degli effetti sulle nostre capacità cognitive incredibilmente importanti, quindi sia proprio nel riuscire a ricordare meglio le cose, ma più che una memoria di per sé, è proprio una memoria, diciamo così, costruttiva, il riuscire a farmi venire in mente bene le cose giuste che sono importanti per me in quel momento. Pensiamo all'umore, sembra una banalità, ma incominciare la giornata con un buon umore, anche se magari lo sappiamo che ci aspetta un qualche cosa di duro o difficile, diventa importantissimo. Non mi è mai capitato di sentire un paziente o un amico dirmi che dopo aver fatto attività fisica, dopo aver fatto una camminata, non stavo meglio con il mio umore. È una vera costante che aiuta tutte le persone. Ecco, noi la prendiamo al dettaglio e quindi invitiamo le amiche e gli amici all'ascolto di fare questo esperimento. Camminate, vedete se il vostro umore cambia. Naturalmente non basta fare il giro dell'isolato, almeno una ventina di minuti perché l'umore ritorni. 20-30 minuti ci vogliono, soprattutto ad una intensità, cioè a un passo abbastanza veloce. Diciamo che è difficile quantificare la velocità, il passo, si dice quella velocità che ci permette di fare almeno 100 passi in un minuto. Questo, professoressa Lucini, si verifica perché il movimento, la camminata in questo caso di cui stiamo parlando, riduce la produzione di cortisolo, l'ormone dello stress, possiamo definirlo così? Diciamo che quello che succede è che il camminare è in grado di modulare vari aspetti che controllano il nostro organismo. Uno è la produzione di alcuni ormoni, ad esempio proprio la riduzione del cortisolo, o piuttosto se magari la camminata me la faccio un pochettino più lunga e il buio è incominciato ad andare via e c'è anche un pochettino di luce, quindi anche la produzione di serotonina, che invece è proprio quell'ormone che ci rende un pochettino più contenti. Usiamo questa espressione, incomincia ad essere prodotto in maniera diversa piuttosto che la produzione di determinati tipi di endorfine. Vede, professoressa Lucini, quando sarà capitato anche a lei, un figlio oppure il nostro compagno, il collega, no? Ci fa un po' arrabbiare e lo vediamo che si è alzato col piede storto, ci viene da dire: ma vai a farti due passi, no? Bravo, così fa bene a ecco, è un modo gentile, ecco, esatto. È un invito in questo caso a fare delle cose che fanno bene, un'attività che fa bene a lui e fa bene anche a noi. Esatto. Professoressa Lucini, lei ha poi accennato alla luce, perché adesso anche le giornate poi si allungheranno, ma arriva anche la luce, per fortuna, e anche la luce ha i suoi vantaggi sull'umore, non solo. Anche in inverno. Non solo l'umore di per sé, ma anche tutti i vantaggi che ci possono essere per le nostre ossa, quindi produzione di vitamina D o cose di questo genere. Specie in una popolazione come la nostra, che se anche vive in un paese dove teoricamente la luce c'è, poi in pratica passa la maggior parte del suo tempo al chiuso. Quindi l'importante è stare all'aria aperta, e cosa di meglio di fare una camminata anche quando la temperatura non è l'ideale, basta un pochettino di luce, non ho bisogno del sole forte che mi scotta la pelle, ok? Basta essere esposti alla luce, quindi quando io vado a camminare mi porto a casa tantissimi benefici. Professoressa Lucini, abbiamo detto camminare, un'attività assolutamente salutare, possiamo farlo anche al freddo con i vantaggi che sono dimostrati dalla ricerca, ma attenzione, ci sono delle raccomandazioni da fare. La prima, la stavamo accennando prima, è proprio quella che se proprio parlo di camminare al freddo, ma questo vale un po' in generale, ma a specie quando c'è freddo, devo comunque stare bene di salute. Se ho già l'influenza, ho già la febbre, ho già il raffreddore, mi riposo per quel paio di giorni che mi servono per guarire e dopo torno a camminare. L'altra cosa è coprirsi in maniera adeguata, non troppo ma nemmeno troppo poco, e qua c'è un po' magari una differenza sul se vado semplicemente a camminare o se vado a correre, perché se invece mi faccio anche una bella corsetta allora suderò sicuramente di più, e quindi questo va tenuto presente. Importanti le calzature, che non solo perché quando io corro devo mantenere un determinato modo di porre il mio piede, per evitare di avere tutta una serie di problemi, ma anche per stare attenta a scivolare. Quindi se vado a camminare o a correre in inverno, vado magari a scegliere un terreno meno accidentato, certo, un terreno dove non si scivola, non dove ho le foglie nel parco. Insomma, lì scivolare. Bisogna, ecco, guardiamo dove mettiamo i piedi, usiamo il buon senso. Naturalmente per i runner daremo dei suggerimenti magari in un altro nostro incontro, mentre professoressa Lucini, una particolare raccomandazione a proteggersi dal freddo invece rivolta alle persone che soffrono di malattie cardiovascolari. Questo diciamo così perché di malattie cardiovascolari, ma analogamente per il diabete o comunque per tutte quelle persone magari un pochettino più avanti negli anni, per fare in modo di evitare di avere dei problemi, soprattutto di patologie infiammatorie, l'influenza, che poi a loro volta potrebbero creare tutta una serie di altri problemi. Insomma, magari una vaccinazione per l'influenza in questi soggetti può anche essere d'aiuto per andare poi a camminare bene. Grazie professoressa Lucini per essere stata con noi. Con lei abbiamo ripreso il passo anche con il supporto degli studi che si sono occupati della relazione stretta tra attività fisica, anche praticata al freddo, e la nostra salute. Buonissima giornata, professoressa. Grazie. Anche a voi, grazie. E per oggi è tutto, vi aspetto come sempre a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e subito dopo per la nostra diretta Facebook. Buon cammino da Nicoletta.